si chiedono se sia stato briatore, e forse sì, anche se lui nega. Silvio Berlusconi ha dunque contratto il Covid, ma fa sapere sono asintomatico. Al di là del positivo eccellente, ieri se ne sono registrati un altro migliaio, a fronte di oltre 100.000 tamponi. L'attenzione pare però concentrata su altro. I migranti innanzitutto, con il vertice di ieri su Lampedusa, nel quale Conte ha promesso lo svuotamento dell'hotspot, il rafforzamento dei pattugliamenti in mare, lo stop ad adempimenti e versamenti per l'isola. E poi le manovre di palazzo, con il voto di ieri sul decreto di proroga delle misure Covid, che ha visto la defezione di 28 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Era un voto di fiducia, I seggi per le regionali e il referendum apriranno tra un paio di settimane, le tensioni aumentano. Mancano un paio di mesi invece all'apertura dei seggi per le presidenziali americane e l'irruzione nella campagna elettorale delle violenze della polizia sui neri si arricchisce di un altro episodio, reso noto questa notte. Un video di un disabile afroamericano ammanettato, incappucciato e morto di asfissia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, giovedì 3 settembre, le 6 e 29 minuti. Con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, il resto della redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Beh, la giornata un po' ve l'ho riassunta. Oggi, tra l'altro, alle 8.30 ci dedicheremo a un argomento laterale, ma nemmeno troppo, perché mentre la politica è impegnata a scannarsi sui vertici dei servizi segreti, come avete sentito, e a incrementare un po' di tensioni interne alla maggioranza in vista delle regionali, oggi ci dedichiamo a chi paga questa crisi da Covid, chi la paga davvero. E già ce lo dicevamo ieri, chi sono? Sono i giovani. Tutti quei contratti a tempo determinato, lavoratori autonomi, co-co-co e via dicendo, che non hanno usufruito del blocco dei licenziamenti e quindi si sono trovati senza lavoro. Indovinate un po' chi sono? Prevalentemente giovani. Tutti quei ragazzi e quelle ragazze che si sono trovati bloccati in casa e non sono potuti andare a scuola, non sono potuti andare all'università, hanno dovuto rinunciare a quel pezzo di socialità fondamentale e chissà come e quando si ricomincia. E su questo naturalmente mi fa piacere sentire la vostra. È 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS, le vostre esperienze personali anche. E l'esperienza dei vostri figli, perché no? Ci siamo. Da cosa iniziamo stamattina? Beh, a questo punto iniziamo proprio dalle questioni economiche, dalle questioni che hanno a che fare con il lavoro. Ogni tanto qualcuno dice: potevamo fare meglio. E quindi va dato merito, va dato atto al ministro dell'economia Gualtieri quando ne parla a proposito della cassa integrazione. Avremmo dovuto da subito cambiare le procedure per la cassa integrazione in deroga, che si sono rivelate troppo lente. Questo è stato sicuramente la cosa che ha funzionato meno bene, peggio. In tutto l'ambito, questo senz'altro. Poi le abbiamo cambiate, infatti, però immediatamente si tratta di fare il decreto, di fare subito, mandare subito questa cassa integrazione, sarà una cosa straordinaria. Gualtieri che vede qualche segnale positivo. positivi, anche quello dell'aumento della disoccupazione, tra virgolette, che nei momenti più duri è scesa paradossalmente, semplicemente perché aumentavano gli inattivi, cioè quelli che non cercavano lavoro. Quindi adesso aumentano gli attivi e soprattutto sono aumentati finalmente gli occupati nel mese di luglio di 85.000, che è un segnale limitato naturalmente, ma positivo di una ripresa che noi stimiamo sia in corso in questo terzo trimestre. Poi c'è tutto il capitolo europeo, ovviamente, ossia il fatto che andrà stilato un piano per il recovery fund, per ottenere i soldi del recovery fund, per ottenere i fondi europei. Siamo in realtà è quello che ci dicono, perché correte così tanto, prendetevela comoda, perché la maggioranza dei paesi presenterà il recovery plan, quello finale, quello con tutti, ad aprile, che è la data prevista, data principale, diciamo, prevista da regolamenti. E quindi alle accuse siete in ritardo, Gualtieri risponde: no, siamo in anticipo. C'è qualche elemento di politica, come vi dicevo, c'è tutta la vicenda dei servizi, ci sono queste regionali che si avvicinano e sulle quali si fanno mille schemi. Cosa succede col 5-1 per il centrodestra? Cosa succede con il 4-2? Cosa succede con il 3-3? Dice Salvini: questo voto manderà a casa il governo. Che il voto del 20 e 21 settembre è un'occasione di libertà storica, perché se va come l'aria mi fa sentire che possa andare non solo in Liguria ma in Puglia, nelle Marche, in Toscana, prima vincete voi e poi vanno a casa Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, la Bellanova, Lazzolina. E forse sì, caro Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, forse sì, forse il governo cambia, ma non è detto che cambi la maggioranza. Buongiorno, come stai? Ciao Simone, buongiorno. Ciao. Bene, bene, sopravviviamo con dignità. Bene, ottimo. Cosa dici? Cosa dici? Ma sì, io credo che se davvero si profila come pare questo 5-1, io penso che ci siano ripercussioni. Ma per il fatto che i due partiti, PD e 5 Stelle, che sorreggono questa maggioranza precaria e instabile, già percorsi da tensioni interne straordinarie, con questa eventuale sconfitta diventerebbero oggetti ingestibili. Si sa che dentro il PD ci sono manovre per far fuori Zingaretti, si sa che dentro i 5 Stelle manca un leader, e c'è una serie di manovre, di accordi, di gruppi, gruppetti, e quindi penso che da lì possa arrivare, essere lì l'epicentro di un possibile terremoto, che non so dove ci porterà peraltro, perché se dovesse andare in crisi questo governo, al momento non vedo un'alternativa in questo Parlamento, quindi il voto. Sei d'accordo, Angelo, sei d'accordo sul fatto che se salta Zingaretti c'è una concreta possibilità che salti Conte, perché al momento mi sembra che il segretario del Partito Democratico sia il principale sponsor dell'attuale inquilino di Palazzo Chigi? Ma potrebbe essere, però poi dopo i fatti hanno una loro cocciutaggine, cioè via Zingaretti arriva un altro che pare sia Bonaccini, ma non si capisce come possa dalla regione Emilia fare il salto al Nazareno. E tuttavia, una volta che è cambiato il leader, che cosa cambia dal punto di vista delle strategie? Il percorso è quello, la crisi economica è lì, i rapporti con l'Europa e i piani per il recovery fund vanno fatti. Non è che c'è la bacchetta magica e Ale cambia tutto. Quindi, secondo me, un po' di sano realismo aiuterebbe tutti. Non è il momento di fare scherzi. Scherzi che di certo sono avvenuti ieri in Parlamento. C'è questa vicenda dei servizi segreti, la riassumiamo ancora una volta per chi si fosse collegato solo oggi. Che cosa è successo? È successo che c'era una norma nel decreto di proroga delle norme Covid che permetteva al Presidente del Consiglio di prorogare appunto i vertici dei servizi segreti. È stato presentato un emendamento, una proposta di modifica a firma dei molti 5 Stelle, di una cinquantina di deputati del Movimento 5 Stelle, che dicevano: questa norma va abolita, non deve essere in capo a Palazzo Chigi la possibilità di prorogare in questo modo i vertici dei servizi. La cosa è stata letta come uno scontro non solo all'interno del Movimento 5 Stelle, ma anche un attacco diretto al presidente del Consiglio Conte. Ieri c'è stato il voto di fiducia, tanto il governo è stato costretto a mettere la fiducia. Con questo voto di fiducia, 28 parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno scelto la defezione, cioè non hanno votato. Angelo, la leggi nella chiave, in questa chiave politica della quale abbiamo parlato fino adesso, o è, come qualche giornale dice oggi, una questione proprio di lotte interne all'interno degli stessi servizi, per cui questi parlamentari 5 Stelle sostenevano la candidatura di Marco Mancini? Ve lo ricordate quello là, quello del caso Telecom, quello del caso Abu Omar, che era uno dei candidati alla guida dei servizi? Come la leggi, Angelo? Sì, la manina e la manona dei servizi in questi casi non si esclude. Lì, tra l'altro, non dimentichiamo, c'è la nomina del comandante dei carabinieri alle liste, quindi c'è tensione in quegli ambienti militari e paramilitari. Ma io la leggo più politicamente, c'è in ballo la leadership del Movimento 5 Stelle e si profila una leadership del Premier Conte, ma non tutti sono d'accordo. Ci sono l'ala di Di Maio, per esempio, che non desidera, non garisce questa evoluzione, a mio avviso inevitabile. Se i 5 Stelle vogliono salvarsi, hanno in Conte il leader naturale e quindi cominciano a mandare segnali. È noto che i gruppi parlamentari non sono al momento sotto controllo, diciamo, da parte dei vertici del partito. Ma è anche noto che questi vertici parlamentari andranno a casa, quindi è una situazione transitoria che produce, come dicevo, questi scherzetti. Certo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, certo, quando abbiamo un PIL in caduta nel periodo di lockdown del 12,4%, i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione che vi abbiamo dato, certo c'è una mini ripresa in luglio dell'occupazione, ma i segnali sono sempre quelli che sono, perché si è perso mezzo milione di posti di lavoro nel periodo Covid, e siamo qua con questi giochetti. Un altro dei dossier concreti che sono sul tavolo è sicuramente quello dell'immigrazione. Ieri il presidente del Consiglio Conte ha ricevuto il presidente della Sicilia Musumeci, il sindaco di Lampedusa Martello, per parlare esattamente di questo, per parlare di Lampedusa, dell'hotspot pieno che ha fatto sapere Conte verrà svuotato, della questione degli sbarchi. Così Musumeci all'uscita: abbiamo aperto una breccia, dopo 10 anni finalmente abbiamo posto al centro dell'attenzione questo lungo calvario, inesorabile calvario, interminabile calvario, che la popolazione siciliana ha sopportato con grande serenità e con grande pazienza, ma adesso questo calvario lo vogliamo condividere con gli altri paesi europei. Vedremo, dice Musumeci, se le parole diverranno fatti. Non ci aspettavamo, non ci facevamo grandi illusioni e avevamo ragione. È rimasta e rimane la volontà a parole da parte del governo centrale di volere finalmente affrontare questo grave, grave problema. Se le parole diventeranno fatti, lo vedremo nei prossimi giorni. C'è poi tutto il capitolo pandemia, ovviamente. Inizierei da questo ministro della Salute Speranza, che paragona l'Italia alla Germania. L'ECDC, il Centro Europeo per la Sorveglianza e il Controllo delle Malattie, ha indicato, come fa settimanalmente, il tasso di incidenza di tutti i paesi europei del virus nelle ultime 2 settimane rispetto a 100.000 abitanti. Il nostro paese, l'Italia, è a 23. in un dato molto simile a quello della Germania e che ad oggi è tra i migliori dati nel quadro e nel contesto europeo. Ancora su Covid, vede finalmente qualche segnale positivo anche il professor Galli. Io mi auguro davvero e anche penso che tornare a dove siamo, a dove eravamo in marzo sia decisamente difficile, anche improbabile. Ciò non di meno siamo in una situazione in cui un'estate non proprio morigerata ha fatto sì che si siano riaccesi numerosi focolai di infezione. Tornare alla situazione di marzo è improbabile, però vedremo cosa succederà. Non so come staremo, dice Galli. E l'altro grande tema, ovviamente, è sempre quello, ragazzi. La riapertura delle scuole. Come staremo il 14 di settembre? Arriveremo alle condizioni di marzo-aprile? Ripeto, non credo. Dobbiamo stare estremamente attenti? Ripeto, sì. Professore, a proposito... E questo vuol dire che per il 14 di settembre non so come staremo messi. Più di tutto, caro Angelo, più delle... chiacchiere sui servizi, più delle tensioni parlamentari, mi pare che la vera grande prova del paese sia esattamente in questa riapertura delle scuole. Sì, infatti dobbiamo appunto parlare di emergenza, siamo davanti a delle emergenze e il paese in queste occasioni deve riscoprire la sua grande capacità di mobilitarsi e fare squadra davanti alle emergenze, come è successo in passato, quindi no divisioni, tutti concentrati verso questo terribile flagello che dobbiamo assolutamente contenere, però devo dire con molta lucidità, senza allarmismi inutili, con un grande senso di responsabilità, specie da parte dei media, perché non dobbiamo confondere i contagiati con gli ammalati, non dobbiamo creare, ripeto, inutili allarmismi. Diciamo, siamo tutti freddi e razionali, il problema esiste, ma gestiamolo con un'esperienza che oramai abbiamo acquisito e ci consente di gestire le situazioni con una certa tranquillità, anche se leggo che mancherebbero i tamponi per le scuole, quindi... Beh, c'è anche di peggio, caro Angelo. Oggi, per esempio, il Corriere del Mezzogiorno, il dorso locale del Corriere della Sera, racconta che tra personale ATA e docenti della Campania solo il 10% ha aderito al fatto di fare il test sierologico. Solo il 10%. E questo, sinceramente, questa è una cosa che tra l'altro non capisco. Abbiate pazienza, è una punturina, poi magari mi potrete dire che il vostro medico di base non ce l'ha, però è una punturina sul dito, è il test sierologico, te lo fai, vedi se hai gli anticorpi, se non hai gli anticorpi, sulla base di quello fai il tampone. Ragazzi, me lo dico, se ci sono docenti e personale ATA della Campania in linea, insomma, o se ci sono altri docenti o personale non docente, insomma, che cosa vi costa, ragazzi? Cosa vi costa? Traffico. Per carità, se mi convincete del contrario, se riuscirete a convincermi del contrario, del fatto che non è un'operazione così semplice, un'operazione così difficile, farsi il sierologico prima di andare a scuola, ebbene, sarò disposto a darvi ragione. Qua esercitiamo l'arte del dubbio. Sempre, sempre. Fa parte del nostro mestiere, del resto, Così come tutti i dubbi, tutta l'attenzione, tutta la delicatezza del caso vanno messi in una vicenda di cronaca che della quale abbiamo letto ieri, della quale tra l'altro vi ho dato conto in rassegna stampa, oggi poi la ritrovate su tutti i quotidiani perché ieri era solamente sul Quotidiano Nazionale, Ed è la vicenda di questa ragazza di 17 anni, forse anche con una sua amica minorenne, forse con delle altre minorenni coinvolte, ma questo non è chiaro, coinvolte appunto in questa storia di festini a base di coca. Si parla di una sorta di prostituzione minorile alla quale la ragazza sarebbe stata costretta per la sua dipendenza da cocaina, ed è uno squarcio, se vogliamo, su una realtà, ripeto, senza prenderla necessariamente come un esempio, no? Però è uno squarcio su un pezzo di realtà che ci siamo trovati a raccontare spesso negli ultimi anni. E questo squarcio è esattamente sul mondo dei ragazzi e degli adolescenti, sul loro rapporto con il sesso, sul loro rapporto con la droga e con questo tipo di situazioni, senza fare, per carità, del moralismo della sociologia d'accatto, però provare a ragionarci un attimo insieme forse può essere utile. Saluto Jacopo Marzetti, che è garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio. Buongiorno Marzetti, eccoci qua. Buongiorno a voi, buongiorno. E Marita Lombardo Piola, giornalista e scrittrice, autrice del libro, l'ultimo libro è L'imperfezione delle madri per la nave di Teseo. Nel 2011 era uscito per Bompiani il suo Facciamolo a scuola, scritto con la K, che documenta attraverso la narrazione di una storia vera, di materiali giornalistici, esattamente il fenomeno del sesso occasionale, a volte mercificato appunto tra i ragazzi. Buongiorno Marita, benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Eccoci qua, eccoci qua. Secondo te cosa, e partirei con te, che c'è qualcosa, lo apre veramente uno squarcio questa vicenda insieme, se vogliamo, alla vicenda delle Baby Squillo dei Parioli, un'altra vicenda simile emersa nel 2016 a Milano, o ci stiamo leggendo troppo? No, purtroppo secondo me apre uno squarcio sul fenomeno. È una deriva che va avanti da molti anni e che è prevalentemente sommersa, cioè i casi che si scoprono sono in realtà la punta di un iceberg, di un incastro diabolico trasformato in una trappola tra due fenomeni, quello di adulti che tendono a cercare anche appunto a pagamento relazioni con ragazze giovani, minorenni, anche più piccole. Oh sì, Marita, perché fammi precisare una cosa proprio per evitare fraintendimenti anche con gli ascoltatori. È chiaro che qua stiamo parlando degli adolescenti, però la cosa più rilevante è l'atteggiamento predatorio di queste persone tra i 27 e i 49 anni, di cui tre arrestati, dei quali a quanto pare un avvocato con il quale questa ragazza avrebbe intrattenuto una lunga relazione. E quindi è chiaro che il punto centrale, sia dal punto di vista penale sia dal punto di vista dell'impressione che ci fa la cosa, è quello. Però insomma, ecco, c'è una riflessione forse anche sui ragazzi da fare. Prego Marita. Sì, certo. A fronte di questo fenomeno, come dici tu, dei predatori di minorenni che sono persone ovviamente senza scrupoli e senza coscienza, che cercano nel sesso con le quasi bambine che possono avere l'età delle loro figlie o un appagamento che sia alternativo rispetto al rapporto alla pari con una donna adulta, anche questo è un fenomeno da studiare, e quindi cercano invece dei corpi acerbi da manipolare, da dominare, e sono gli stessi adulti, questo è importante dirlo, che sono impegnati nei viaggi di turismo sessuale, dove gli italiani sono i primi della lista internazionale, sono quelli che hanno fatto dilagare la pedopornografia, sono un fenomeno sì, grave, padri di famiglia spesso, che cercano appagamento in questo tipo sì, di stupro, perché poi alla fine le ragazze sì, di quello si tratta. Sì, ce lo chiede, prego Marita, sì, concludi. Ecco, dall'altra parte questo fenomeno in maniera speculare si incastra con questa deriva che, come ti dicevo, va avanti da molti anni e riguarda ragazze anche più piccole di quelle coinvolte in questa storia, anche molto sì, piccole. E qui parliamo di un fenomeno drammatico, ovviamente, cioè di ragazze travolte dalla mentalità, da una cultura che è arrivata con messaggi subliminali diretti negli anni, il valore di una donna sta nel proprio corpo, per cui il proprio corpo può avere un valore di mercato, a questo diventa quasi un riconoscimento, perché parliamo di ragazze insicure, a volte invisibili, che non si sentono abbastanza al centro delle cure e dell'attenzione, e quindi cercano questo modo mostruoso per esistere e darsi un valore. Parliamo di ragazze senza sogni, senza progetti, stordite sì, dallo spirito del tempo e anche dal consumismo, ubriache di consumismo, sì, che pensano di affermare la propria personalità, il proprio in questo modo. Qualche ascoltatore lo sottolinea, certo, non l'abbiamo detto perché non era compreso nel discorso, non perché ci fosse una volontà politica. Tra gli arrestati c'è, e anzi, un personaggio centrale, questo Luca Cavazza, 27 anni, che si era presentato alla Lega alle ultime elezioni regionali in Emilia Romagna, uno di quelli che diceva parlateci di Bibbiano. Jacopo Marzetti, come la legge? Abbiamo ancora un minutino e mezzo. Ma guardi, come è noto, difficilmente commento i fatti di cronaca, ma le loro conseguenze. Sì, sì, è quello che mi interessa, cioè come legge il fenomeno, penso, e se esiste. Penso che quando succedono questi fatti dobbiamo porre l'attenzione appunto su principalmente tre conseguenze. Prima di tutto, ci si augura che il nostro ordinamento garantisca la giustizia a queste ragazze, a questi ragazzi, con le condanne di queste persone che a qualsiasi titolo o modo hanno approfittato di loro. Secondo tema importantissimo è quello dell'aiuto, del supporto a questi ragazzi che hanno subito queste questioni. Molte volte quando succedono questi fatti c'è la massima attenzione, però poi vengono abbandonati e non vengono seguiti, quando invece stanno in un'età in cui si possono aiutare nel crescere dopo quello che hanno appunto subito. Bisogna stare molto vicino, le istituzioni ci devono essere, il supporto dei comuni, delle regioni è fondamentale affinché queste ragazze, questi ragazzi vengano seguiti nel loro percorso dopo quello che hanno subito. Terzo tema è quello di perché si è arrivati a questo, cosa è successo, e soprattutto quando succedono questi fatti è chiaro che c'è un fallimento del sistema, diciamo, del sistema sia delle istituzioni ma anche e soprattutto delle famiglie, perché chiaramente se dei ragazzi o delle ragazze sono arrivate a prostituirsi per avere dei regali, della droga, è chiaro che qualcosa nel meccanismo non ha funzionato. E bisogna lavorare su questo affinché questi fatti non succedano più, che purtroppo, come leggiamo, sono sempre più all'ordine del giorno, e quindi è importante che i nostri adolescenti vengano comunque seguiti, ma è un sistema che deve partire dalle famiglie, dalla scuola, dalle istituzioni, e veramente, come diceva la dottoressa, c'è bisogna dare maggiore attenzione a questo fenomeno, perché sicuramente sta sfuggendo di mano se non si interviene, perché sono veramente sì, troppi casi, l'abbiamo visto in questi anni, che si moltiplicano, Grazie Jacopo Marzetti, grazie a Marita Lombardo Piole, grazie anche a Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, per essere stato con noi. Simone da Varese scrive: il vero problema è che mancano le famiglie. No, in questo caso in realtà la denuncia è proprio partita da una madre, però forse in alcuni casi è effettivamente così. GR24, ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa. Buongiorno Simone, buona giornata e bentornato. Tutte le mattine io ascolto lei.